Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati, sono a Roma, ecco, sono dove mi avete lasciato, nelle stanze di Raffaello, nel Palazzo Pontificio. Raffaello era in quei primi anni del Cinquecento oberato di lavoro, perché il pontefice e i due pontefici, Giulio II e Leone X, gli stavano commissionando le decorazioni dell'appartamento pontificio, ma nel frattempo anche i dignitari della corte volevano le opere di Raffaello, in particolare Agostino Chigi, il banchiere del Papa, ricchissimo, che si fa costruire una piccola villa vicino al Tevere e vuole che Raffaello decori gli interni e le logge di questa villa, naturalmente in questo caso con delle scene profane, Galatea oppure le nozze di Amore Psiche, naturalmente quindi cose completamente diverse, ma Raffaello è perfettamente in grado di trattare soggetti sacri e legati all'appartamento pontificio, così come questi meravigliosi affreschi che rievocano il mondo classico. Nel frattempo gli affidano addirittura la fabbrica di San Pietro, la basilica di San Pietro, quindi a lavoro su lavoro, e per ovvie ragioni Raffaello si deve circondare di una attivissima bottega che fa sì che questo artista lavori moltissimo, ma noi ci rendiamo conto che la presenza di Raffaello è sempre più scarsa, nel senso che dobbiamo proprio andarlo a cercare in queste committenze. Realizza nella chiesa di Santa Maria della Pace un meraviglioso affresco dedicato alle sibille che vengono ispirate dagli angeli nel predire l'arrivo di Cristo, e poi ci sono i ritratti e una attività straordinaria. Tra l'altro, dice il Vasari, era anche un bell'uomo, era un giovane uomo a cui piacevano molto le donne, e pare che proprio questa sua predilezione per le donne lo portasse alla fine a una drammatica conclusione, cioè Raffaello muore giovanissimo, secondo appunto Vasari, per gli eccessi amorosi, e appena abbozzato un dipinto, l'ha quasi finito, una trasfigurazione che doveva andare nella cattedrale di Narbonne in Francia e che gli viene messa capoletto mentre lui è steso nel sonno della morte, verrà portato in trionfo nel Pantheon, dove ancora oggi si trova la sua tomba, meta di tanti pellegrini artistici che ricordano la grandezza di questo giovane artista del Rinascimento. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su aruba.it.